ne muove a demo. Sì, sì. Bobo. Muove a demo. Sì. Ja, muss die Maschine ja. Fahr ich da jetzt auch wieder raus auf die Straße? Der Pilot sagt es zumindest, ja. Da hat dann auch gleich ein Decathlon mit drin. Ja, mit Decathlon. Der war, hat mir aber nicht angezeigt. Wo müssen wir da raus? Ich vermute geradeaus und dann müssen wir gehen. Hier bei dem Wohnmobilstopplatz, oder? Mi sentite? All'operidolo non ne abbiamo qua. Raga, ma mi sentite? Audio, cos'è? Non mi tu sì. Mari, oh Mari. Ciao Mari, ci sei? Luca, tu sei? Luca? Luca, sei tu? Famoni! Famoni! Luca! Mi senti? Io giù. Sono appena rientrato. E allora? Ciao Lu. Sì, 30 gradi, sì. Col gommino stai arrivando. Sì, aspetta, dammi un secondo. Che tolgo questo, il gommino. Luca! Dimmi! Per carità, ciao Giulio! Ciao! E allora, che cosa si dice oggi? Ma sto cercando di chiamare Luca, si è dimenticato cosa è in macchina. Luca! Luca, cos'è? Il memorandum di Vincenzi? Boh, vabbè, Giulio, diglielo tu. Tanto lui è ostinato a parlare in questa frequenza e non si sente da qua lì. Ah, mi lasci cambiare l'antenna e non massillare. Io ti sto spaccando tutto, di la verità adesso. Sì, basso, piccolo e nero, tu sempre stato così in frequenza. Brutto al culo! Ti hai dimenticato l'antenna in macchina, Lu. Cosa mi hai dimenticato? L'antenna. No, cerca di portarmela in fretta, perché sennò non vedo la televisione. Questa è la. Questa è la. E l'altra è la B. Allora, l'altra non ti sentivo niente. Qua sei quasi fondo scala, dai, ciao. Questa è la 510. Aspetta un attimo che controllo. No, aspetta un attimo. No. Questa è la 200, scusa. Va bene, io devo fare cosa, Mi sto allontanando dalla radio. Con l'altra mi hai già sentito allora, Cosa? Con l'altra mi hai già sentito? Livello QRM. Con la 500, no, ma con la 510 dove è messa adesso? Quando mi hai sentito l'altra volta era sul palo ascensore. Stavi parlando con Giulio 5 secondi fa, ti stavo chiamando e non mi hai risposto. E Giulio ha detto, digli a Luca che si è dimenticato l'antenna. Prova, dai, muoviti, dai, che devo fare cosa. Stavo parlando col gommino, per forza. Aspetta che ti metto l'altra, aspetta. Dammi un minuto, il tempo di cambiare PL. Cambiati il PL, per carità, Giulio. Cosa vuoi fare? La vecchiaia sta incominciando ad incombere. Adesso ho deciso così, vabbè. Certo. Non è che sta perdendo niente, tutto sommato. Se consideriamo l'avvocato è entrato 27 e poi quando c'è qualcosina nel modo come si fa, abbiamo detto tutto. Nino? Ho capito Giulio, però c'è un toglie che evito magari di transitare in quella cosa lì, ma mica mi smonto quello che ho. Prova Luca. Questa è la 510. 510 e l'altra è la 200. E questa è più bassa, eh. Va bene, confermato anche da Franco di sotto. D'accordo, d'accordo. Eia, eia. E vabbè, però ti non potevo buttarla in soffitta perché i radiali, come ti ho detto, non ne uscivano, manca a morte. Ho detto, per tagliarli, la metto lì al posto di quella del CB e la lascio Murighivi, capito? Sicché, ecco perché. Va bene, capa, rimetto l'altra allora. Eia, avanti Giulio. Ah, sì, sì, dai, le prendo io un attimino, scusami Giulio, devo fare cosa, mi devo allontanare dalla RAI, dai. Va bene, era giusto per fare una prova con Luca che quando dice le cose non ci crede, comunque. vabbè, dai. Sì, in effetti la 500 è più bassa. Sì, perché su questa antenna corta ci vuole, l'antenna più lunga è peggio va. Questo lo sappiamo, perché è troppo lontano dalla frequenza, trattandosi di una VU. E poi c'è tanto allora il discorso sarebbe stato diverso. Ma siccome VU non va bene, il trattamento di frequenza, antenna e frequenza, insomma, ecco. Bene, ti vai, divertiti allora, buon lavoro a casa, cosa devi fare? Ok. Dai, no, devo smontare la camera d'aria, dalla bicicletta di mio figlio che la vuole usare ed è bassa, quindi sicuramente ha bucato. Va bene, dai, più tardi se coincide, ciao, riprendi. Ciao Tino, ciao. Ciao Cla, ciao. Grazie, quante sovramodulazioni a casino. Come stai, ti semmo? È dal 1986 che faccio provi le UHF. Intanto un'antenna monobanda UHF non esiste così lunga, lo sai meglio di me, è meno della metà di quella monobanda. B-banda è chiaro che la lunghezza è quella perché deve compensare con le V, ma io le prove le ho già fatte, io lui gliel'ho data, ma non per montarla sicuramente qua, per fare altro. Poi veda lui, io le prove le ho già fatte, io quella ci avevo e quella stavo usando, ma a scopo assolutamente così, giusto per farmi sentire, ma è chiaro che l'antenna per le UHF deve essere corta. Aspetta che abbasso la diretta perché stanno lavorando a Monterraso sul ponte. Ok, va bene, io le prove le ho già fatte Giulio, non ho niente da dire, le antenne corte vanno bene per le U, le antenne lunghe vanno bene per le V, se poi una B-banda va bene lo stesso, però per uso amatoriale, non per la diretta così, perché già quell'antenna non è tarata per questa frequenza, perché quell'antenna fa 4,30-4,40, quindi siamo già a 4,46, perciò già non risuona, in più è lunga. Un metro, uno, due, 2,30 metri, più lunga, fate il conto. Beh certo qua, ma in effetti è così. Dalla 4,46. Va bene, dai. Luca, facci sognare. C'è qualcuno che vuole entrare, o Giulio, o ti vuole mettere la portante, boh. Avanti, chi è che vuole entrare? La signorina? Ma vicino a te allora, perché qua non arriva. Quando parla Giulio non si capisce cosa dice. Sì, qua vicino. Mi è sembrata la voce di donna però. Ehi, pronto, le voce, cosa vuoi che ti dica, Olu? E che te ne frega? Tutta quella è la sua soddisfazione. E vabbè, se la prenda alla grande la soddisfazione di mettere la portante. Dai, pita. Ti puoi immaginare che la sta di guadagno da imbecille che prendi su. Oh, io bova l'Italia, quanti cervelli pazzi che ci sono nella vita. Non è possibile, comunque qua non arriva quella portante lì. Vabbè, dai. Riprendi, vediamo se mi hai sentito in questo passaggio. Ma a me stai dicendo Giulio, io ti sento qui. A Puglia, la 200. Allora, se stavo mettendo una portante, pensavo che non mi sentivi. Vabbè, allora è proprio guasto di Luduccio, quello lì. Allora è proprio completamente scemo. Vai Claudio. Scusa un attimo, Clam, no? Quando parlavi tu, però parlavo anche, mi sembrava una voce di donna, e ti copriva, capì? Va bene, dai. Famone! Mia, Luca Cagliarella! Ma non è una portante, Giulia, mamma mia, tu sei di veloci. Non è una portante, è gente che sta parlando per i fatti suoi, devono essere camperisti. Sono qua, magari sono in transito vicino lì alla Buddy Buddy, e Luca li ha sentiti. Manco arrivano qua, figurati. Non ve ne è portante, non ti preoccupare. Io ti ricevo forte e chiaro, quindi portante non ce n'è. E beh, Caldare. Riprendo io, visto che Caldare non riprende. Allora è vicino a me, Cla, perché anche a te la sta mettendo, capito? Copre a te e a Giulio, sicché è vicino a me. Non sta mettendo niente, stanno parlando per i fatti loro. Quello che stanno facendo, stanno coprendo sia a te che a Giulio. E chi sono i giochi di Zendi? E la sale va, magazzina futti. A sei tocca che tu vanno in tutto e andare a mini, ma devo stare a diventare Marco io. Bah. Hai sentito? Sì, adesso ho sentito. E quindi c'è bisogno di parlare sopra gli altri se vuoi parlare. Questa qua, infatti avevo ragione, che era... Stanno parlando e quando, magari stanno parlando tra di loro, però deve essere qua vicino e copre sia a te che a Giulio da parte mia, capito? Tu a Giulio magari lo senti, lui sente a te, ma io non sento né a uno né all'altro quando si mette in mezzo. Basta dirgli educatamente che questo canale è occupato, il canale 7 è occupato, ce ne sono altre 20, vai e modula in un altro canale, boh, non ci compresi. E infatti mi sembrava strano, canto. Poi mi dava Giulio e parlava insieme. Parlava Vittorio, adesso hai fatto un passaggio tu e parlava insieme. Dito, allora lui si offende a Puglia. E vuol dire che lì nella Buddy Buddy, perché qua segnale non ne ha. Ho sentito, ma segnale non ne ha. Quindi sicuramente sta transitando vicino a te, capito? Ehi, ehi, Cagliare! Luca, microchip! Ma te l'hai molto microchip lui, sì, mi dai tu? Sì, che ce l'ho. La radio è passata da Ginuffi, la Giumai. Mamma mia, mi sono che è successo. Antirrabbia, tutto vai. Il vaccino, antirrabbia, tutto. Sì, insomma, l'antirrabbia, la Giù musica da uno, sai, pensavo di averlo, invece, gli hanno tagliato la gamba. Allora si pirinusa. Comunque, dai, allora, passalo, ti porto quel chip. Non ne voglio di chip, lui. Già te lo do senza chip, no, me ne costa nulla. Te lo metto l'ascensore, però se ti muovi, se no devo entrare a lavarmi, te l'ho detto, che oggi è ottobre e fino a giugno poi, se no... Non ne vado bene! Ancora, cosa, non è possibile, diciamo. Lu, non ti preoccupare, è il tempo di vestirmi e poi passo. Ancora, non è possibile. Ma quando mai non sentono che stiamo parlando noi e che il canale è occupato? Ma non te ne puoi andare, gorromanno di Ravocca, due rugamper. Ah, in affanculo. Cazzo, sono forti. È vero. Che gente maleducata che esiste, cazzo, io non riesco a capire. Ma quando mai a me non mi sente? Non mi senti? La reccia pampanati, va, che ti pampaneggia nello sei beddu. Ma è l'alluggimento, è la reci. Non è possibile. Ehi, vabbè. E cosa ci vuoi fare? Perché ce n'è tanta gente qua, per cui uno è più, uno è meno, non è che fa nessuna differenza. Mi senti tu, Giulio? Oh, gatto, ma se stiamo parlando noi in questo canale, cosa cacchio ti metti in mezzo alle balle? Non ho capito io. Con tutti i canali che ci sono, ma vai a Rogorromanno di Ravocca, se non capisci il sassarese, vai a Punta di Casino a parlare. Hai capito quella me? E mangiati un brodino di mammo, eia. Non è possibile, non è possibile. Ehi, vabbè. Luca Manicomio, come stai combinando? Dite ragazzi? Ciao Giulio, mi stavo vestendo, si metto il rossetto, e da che ve l'ho già messi, il reggiseno e esco. Ci vieni? Mettiti anche le gipalle. Non si sa mai. Luca, ancora disturbando stanno quelli. No, non si sentono più adesso. Beh, qualcuno in transito era lì, dalle tue parti, e allora non sapeva cosa fare, rompere le scatole. Dai che muore fa, dai, a putti muzzini. Avanti Claudio. Io sto ascoltando la diretta, non so se voi la sentite, ma non penso, da Monterraso, non è che vi arrivi in diretta. A 525 stanno salendo sul ponte a sistemare. Ma tutte le spese che li paga per queste cose qua, questi ponti eccetera, o Claudio, chi è che li paga queste spese? Le associazioni dei rallevatori? La tasca, ogni socio mette i soldi, ogni associazione mensilmente devono mettere una quota, a parte quella annuale che si paga all'ARI, su quanto arrivano forte, tu immagini, mi arrivano con l'antennino, anche Walter si sente con l'antenna in gomma da Monterraso, specchi abbassano, non mi piace, ognuno mette i soldi, ogni mese c'è la quota fissa e fanno cassa, con i soldi che hanno mettono appunto a disposizione, cioè fanno le riparazioni. In questo caso si è rotto il ripetitore, stanno andando a ripararlo, penso l'abbiano già comprato nuovo. Addirittura nuovo ci è voluto, caspita. È una passione costosa comunque, sotto certi aspetti, se uno la vuole fare a certi livelli è anche costosa. Presente, dai. E Luca tieni cava l'antenna, ma hai visto? Luca, le mette l'antenna? No, io non li sento, ho provato. Ma in V stai dicendo? Non ti arriva manco se ti ammazzi a te Monterraso in diretta a 525. Direttami. È difficile, sono l'unico a Sassari che riceve la diretta da Monterraso. Diretta, non sul ponte, c'è cioè a 525. C'è Walter col gommino che mi arriva a 9, fate il conto. Ah, toglietevelo dalla testa. Assolutamente. I ponti li sentite, ma le dirette, oltre le gallerie non sentite più niente. Assolutamente. Già fatte le prove, sono l'unico che quando vanno a Monterraso mi chiamano per fare le prove. Adesso c'è Alghero, stanno facendo le prove con Alghero. Perché io mi sono ritirato dalla banda. Va bene, sì Giulio, è normale, cioè ogni socio mensilmente deve mettere una quota, X, possono essere 10, 20 euro al mese, più all'anno si paga 72 euro, anzi adesso è 76, capito? Io li ho sempre messi, li abbiamo sempre messi, è normale, perché altrimenti non fai cassa, devi comprare 50 metri di cavo, un'antenna, sì, il fulmine ha bruciato la cavità e quindi sicuramente hanno comprato la cavità nuova e stanno salendo a cambiarla, tutto qua. Ho capito. E di solito chi le fa queste riparazioni nei punti di questi radiamaturi? Chi è, diciamo, quello competente per fare queste riparazioni? È uno di, non è di Sassari, uno di vicino a Oristano, un radiamatore che lavora proprio in una ditta che fanno punti radio, capito? E quindi infatti vanno sempre di sabato o di domenica mattina, proprio perché lui è libero. Ho capito, per non perdere il lavoro quello giornaliero, certamente, è ovvio. Non puoi sprecare il tempo per lupi se ti viene a costare. Al massimo ti deve costare solo un po' di sacrificio fisico, ma non certamente perdere i soldi magari del lavoro durante la settimana, è ovvio. Io Luca, avremo un ripetitore. Eia, lo mettiamo da Claudio. Sì, così poi non parlo più, non so quanto disturba lui. Avevamo già da anni intenzione di metterlo qua su, copriva tutto abbastanza. Ti ripeto, io arrivo in diretta da tantissime parti, però non parli più, capito, disturbo un bel. Adesso lo potevano mettere, io mi sono ritirato, ma non ne faccio mettere manco se si ammazzano. Giulio, ti dico una cosa, non me ne ha fatti nulla se qualcuno ascolta. L'unico finanziatore, capito, che apre la tasca e mette i soldi e compra è uno solo a Sassari, capito? Ed è quello vicino a te. Quello, quando si rompe qualcosa non ce n'è problema. Cosa c'è a comprare questo? Tieni, compralo, capito? E ha comprato sempre tutto lui, sempre. E così non va bene, no, così non va bene. Gli altri si dovrebbero vergognare a quel punto, secondo me, perché anche gli altri devono collaborare, perché non è giusto che facciano spendere solo a una persona. Caspita, ma vogliamo scherzare? Io capisco che le possibilità per poter fare certe cose ce li ha e sono contento per lui, perché ha tutte queste possibilità. Però che gli altri ne approfittino e non mettano mai dei soldi per aiutare, no, non va bene, così non va bene, assolutamente, nella maniera più assoluta. E magari ci sarà qualcuno che lo critica anche, perché non c'è la malabbigliarsi, già lo sai, le madrelingue esistono dappertutto, no? Sì, vabbè, chiudiamo il discorso, apro e chiudo parentesi. Però ti posso garantire in tutti gli anni che io sono radioamatore, che ho visto pagare sempre mio padrino carissimo. Quindi gli altri mettono quello che devono mettere, ma lui è quello che mette sempre più di tutti. Capito? Perché così, la realtà è quella. Va bene, dai, che si arrangino. Io ho il massimo rispetto per loro, perché fanno veramente tanto per far sì che tutto funzioni bene, quindi ho il massimo rispetto. Però io sono fuori dal mondo, non mi interessa più niente. Avanti, Luca. Magari, probabilmente uno mette appunto il cash e l'altro mette, per dire, la manodopera. Penso, poi no, non lo so. Capito? Vabbè, avanti alla vamme, dai, siamo rientrati avanti. Riprendo tra un po', anzi sto aspettando a Luca, che gli devo dare un chip ed entro a lavarmi, dai. Capito, credo, e poi credo che si aiutino così, poi non lo so. Vabbè, fondo scala, dici. Non è così, Luca, tu lo sai meglio di me, non è così. Ci sei in mezzo anche tu, ci frequenti in quella greffa, quindi lo sai che non è così. Comunque, a me, ti ripeto, non mi interessa. Io quando ho partecipato, quando sono stato nell'associazione, ho sempre messo la mia quota. Quando mi hanno chiesto qualcosa ho sempre dato una mano, però non è così, capito? Dico solo che se uno mette 50, quello vicino a Giulio mette 100, se non 150. È una sua scelta, naturalmente, non è che è obbligato, però l'ha sempre fatto e continuerà a farlo. Vita natural durante, perché vuole che le cose funzionino bene. Ok, chiudo il discorso perché, ti ripeto, non mi interessa. Vivo per i fatti miei e lascio vivere. Avanti, Giulio. Ok, sì. Io capisco che lui magari mette i soldi e gli altri mettono il lavoro manuale, però non è la stessa cosa, non è proprio la stessa cosa, anche se anche il lavoro manuale è un aiuto indubbiamente, però uno a mettere i soldi, l'altro dovrebbero collaborare tutti, ma possibilmente in maniera uguale per tutti, no, non va bene, se no, io non sarei stato d'accordo, la verità, io mi sarei offerto, sarei stato io il primo ad offrire, no, qui dividiamo per tutti, perché tutti lo utilizziamo e a tutti fa comodo, per cui non può essere solo uno a pagare in denaro, anche se gli altri si possono anche impegnare fisicamente per fare i lavori, però non è la stessa cosa, Luca, vai. No, io ho detto, magari uno mette una cosa e l'altro mette la testa, mette la saldatrice, costruisce, capito? Io facevo questi esempi così, e se poi è appunto una sua scelta metterne di più, perché comunque ci vogliono, no? Per dire, o è urgenza di cambiare quel pezzo. Ehi, chiudete il discorso, ascoltando da... Uno deve dire, aspetta... però qua c'è anche la mano d'opera, i giorni lavorativi, non lo so. Ma ce la metti, ok. E così e basta, uno mette di più e l'altro mette di meno, i lavori si fanno tutti assieme, chi ha voglia di fare fa, chi ha voglia guarda. Ma Luca non c'è più. E beh, non mi senti? Che cosa? Audio. Io già ti sento, sei tu che non mi senti. Sì che ti sento, aspetta, batteria scarica. Infatti sei mancato completamente. Si è consumata a te bene la batteria, capita perché sei veloce. Consumandosi la batteria. A meno che non l'hai usato anche stamattina, boh, non lo so. Io le ho caricate tutti e due. Dunque, per stasera sono a posto. Quando si consuma una c'è l'altra pronta. E va bene così. Luca, allora non riprendi, se hai la batteria scarica, non ce l'hai il ricambio? Sì, la sta cambiando. La sta cambiando. E noi abbiamo il canale 7 a Sassari qua. Poi altre frequenze ce li hanno da altre parti. Vabbè, noi usiamo il canale 7, non ce ne fotte niente degli altri, con la speranza che non vengano a rompere le palle anche qua. Va bene, ma Luca Manicomio dov'è? Infatti, mia madre mi ha lasciato il microfono, io lo sto chiudendo, adesso faccio un salto da Luca, prendo una cosettina e poi usciamo un po', tanto non facciamo tardi già. Giusto così un paio d'ore. A domani se Dio vuole, dai. Ciao Giulio, Claudio e chi c'è qua in frequenza, ciao. Riprendi qua. Eia, va bene Lu, ciao, saluta Marina, buona passeggiata, buon tutto. Non ti ritirare tardi, perché stasera piove, da stasera inizia a piovere. Vai Giulio per i saluti. Ok, ciao Luca, buona passeggiata e buon divertimento allora. Alle prossime. Avanti Luca Flipper. Eia, ho cambiato che c'era la batteria scarica. Ah, così è così. Non lo so. E comunque alla fine dell'opera Baliussima è una cosa costosa, eh. È una cosa costosa. Se poi ci devi mettere ogni anno manutenzioni, sabati e domenichi, capita. Quello è, le quote sono quelle, no? È che. Capito? Infatti molti non appartengono più, come me e tanti altri, perché è una cosa impossibile, capito? Sono 80 euro all'anno, vanno dati nuda a una radio rivista che vestito solo guglionati. E boh. Vabbè dai, parliamo di altro però per favore, perché no, non mi interessa parlare di queste cose, no? Non me ne ha fatti nuda a me. Stavo dicendo Luca, quindi vabbè la 510 qua ci sono due segnali di differenza, però è abbastanza forte perché è più lontano, mentre Tino è vicino e quindi non risuona bene. Ricordate anche quello, più lontano è più risuona, a parte la lunghezza d'onda. Poi la direttiva invece l'hai provata? Continuo? No, continuo no, questa è sempre la 200 e sto usando quella adesso. No, continuo no, perché ieri non l'ho sentito. Vediamo un po' se entra dopo. Vabbè, no, qua si fondo scala con la direttiva. Con questa qua si un attacca manca al fondo scala. Con la direttiva sei proprio on air, praticamente non c'è più smitter. E con la 510 invece sei 59 più 10. Perciò diciamo, insomma, vanno bene tutte e tre, è quella che va meglio chiaramente la direttiva, perché polarizzazione verticale è chiaro che è così. Vabbè, io ho abbassato anche la potenza, ditemi se mi sentite. Giulio, mi ascolti, sì? A voglia, anche troppo. Figurati, non c'è problema, no, che sento benissimo qua alla grande. Dai, io mi allontano due minuti, dai, che scendo un attimino giù, che mi prendo il telefonino, perché sto aspettando una telefonata stasera, sennò dopo mi tocca scendere di corsa, invece me lo vado a prendere adesso e salgo subito su. Ok, riprendete, già rientro subito. Ehi, siamo qua, siamo qua. O qua o sul 10, vabbè. Lu, mi hai rotto le balle, rimetti l'antenna della 27 per favore. Cazzo, boh. Lu. Ci stavo così bene questa 510 lì, hai visto che bellina che è? No, io te l'ho detto, per me io l'avrei messa, cioè l'avrei lasciata, non messa. Se per esempio c'è questo casino sul 10, boh, allora tutto è tua, io sul 20 e ci facciamo ruota noi, va benissimo, per me andava benissimo, capito? Ma se poi uno, io non posso costringere la gente a andare sul 20, o là. Che ecco perché alla fine non posso costringere a te, se stai bene sul 10, a venire con me sul 20, a chi fa il ping pong, sai che sarebbero loro a spostarsi e fare il ping pong in un altro canale e lasciare la radio libera, capito? Cioè libera nel senso di riprendi tu, ecco, questo è fare ruota, va bene, eia, dai, adesso vedo, dai, la metterò. Magari se mi sale e non piove anche domani, dai. Lu, ti ha risposto anche Tino. Cioè, va bene, io te l'ho detto, sono solidale con te, sono d'accordo con te. Non c'è nessun problema. Dal momento in cui non ci va o non va a qualcuno, a me, basta che qua mi dici, Cla, vai al 20, io me ne vado al 20. Non c'è né problema. Ma nessuno ti dà il diritto di toglierne l'antenna della 27. Non la devi togliere. Perché è roba tua e ne fai quello che vuoi. Ok, quando vuoi parlare parli, quando non vuoi parlare non ci parli, capito? Sì, di Sassari ci sono io, e questo canale 7 è occupato dai sassaresi, voi algheresi statevene dove siete, capito lui? Non ho capito cosa hai detto? Anzi, full duplo che si fa vedere. Mi hanno sentito, mi stanno sentendo ad Alghero. Sì, sono qua, ci sono io, nel canale 7. Quindi voi rimanete in un altro canale. Avevo solo che venga il burro a Carese, no, che rompimi le balle. Va bene, capito Lu? Quindi devi rimettere l'antenna e noi siamo liberi di andare dove vogliamo. Tu sei libero di parlare con chi vuoi e dove vuoi, e punto, e a capo. Uscendo, sì. Sì, ma io dico, è così bello fare ruota in 6, in 7, in 8, cazzo, quello è che dico io. Vabbè. Guarda, vedo un po' se domani veramente, no, se domani piove non mi zicabba nulla a punire l'antenna, capito? Anche perché devo tutto ripiazzare, rimontare tutto. Cazzo, ne avevo preparato una bellina veramente. da con cavo da 6 mm, quella avrebbe... Insomma, ha fatto qualcosa anche in più. Vabbè, qui c'è vera prima l'avevo fatta col 58, però è già durata anni e anni. E che ne ha pure da fare io per fargli la revisione, capito? E nastrare tutto quanto bene nuovamente. Va bene, Luca si deve essere perso. Boh, io e lui che mi devo lavare. Eia, va bene. Comunque, lui, sì, noi possiamo fare quello che vogliamo, non è un problema. Noi siamo CB, capite? E queste frequenze sono assegnate ai CB, quindi stiamo qua, da una parte, il canale 7 ce l'abbiamo, che è questo, poi abbiamo il 10, abbiamo il 20, non è un problema, il 23, dove vuoi vai, ma non è che ne puoi bugare l'antenna, non è che ne puoi togliere l'antenna non la devi togliere, capito? Quindi fai la cortesia, ripiazzala, e così va bene, capito? Così va bene, almeno si possono fare due chiacchiere anche negli altre bande, capite? Ehi, c'è poco cosa intendere, ma con te guvirani? Cosa, Lu? Cos'è arrivato Luca e perché? Vabbè, già sono qua io intanto in ascolto, non ce n'è problema. No, ho detto, quanto arrivano forte! Un bel forte arrivano a me, Lu, no... Già lo sai. Già hai visto dove sono, no? Ti sei reso conto, c'è quell'antenna piccolina, le altre le ho tutte tolte, non me ne fotte più nulla, però già vi siete resi conto dove sono, io no, che non ho ostacoli, non ho niente, Sassari rimane ai piedi, quindi. A proposito, mi ha risposto quello là, ok, è arrivato tutto a posto, va bene, alla prossima, giù dito. Perché cosa aveva dubbi? L'ho provato io, rotore. Una settimana prima, quindi non è che che praticamente c'erano problemi. Il control box è nuovo, se poi è da girare praticamente, perché può darsi pure che io abbia spostato il coso, come si dice, la lancetta del control box, perché mi pare l'avevo spostata con Andrea, ma quello se ne accorge lui. Una volta che poi lo mette a girare, se vede che non è nord, molla la vettina e lo mette giusta a nord. Cioè, sono cazzi suoi, non me ne ha fatti nulla. Le ponte, che sia tutto funzionante, perché quella roba è nuova e funzionante, tranquillo. Ma ce l'ho detto, no, Paco, è arrivato, tutto ok, grazie. Che poi si era provato, l'ha attaccato, questo non lo so, non credo, perché che abbia piazzato, credo mi abbia risposto solamente perché gli è arrivato, che era integro, diciamo, dai, poi che l'ha piazzato non ho mai tenuta. Va bene, eia, meglio così. Quando lo piazza vede che già funziona, poi ti ripeto, se c'è da spostare qualcosa la sposta, come facciamo tutti. Non so se tu l'hai mai visto come si fa. Per fare il giro al contrario si sposta la lancetta, perlomeno. Marco mi aveva insegnato così. Va bene, va bene. Ma Luca è arrivato. Lugari è Papa e Citti. Ma hai detto che lei scendi? Beh, agito, vabbè, mandami il messaggio sul telefono e così ti metto questo coso in tale ascensore. Cosa, Giulio? Sei rientrato? Avanti? Ho detto che stava scendendo un attimo giù, mi sembra, boh. Domani voglio avere l'antenna montata, se non piove. Rompere le palle. Così, quando siamo 2, 3, nel 10, facciamo questione 10. Non ci va di stare al 10 perché c'è troppo casino, perché ci vogliamo spostare per parlare di altro e fare prove, ci spostiamo al 20. Vogliamo entrare a salutare sul 23, si entra a salutare sul 23. Non ci deve essere nessuna cosa con nessuno. Ognuno è libero di parlare dove vuole e con chi vuole, punto. Non ne voglio dire io di chi si è cazzati. Ah, ma infatti anche Tino, ma tu sei stato frettoloso, se non ti va di stare lì non ci stai. Sì, ma dove sta il senso? Cioè, se non stai lì, ne sai, a farvi da col mulo, o devi mandare un messaggio a Tino, a Claudio e costringerli, obbligarli a venire sul 20 perché... Capito. Ma a me era solo quel sistema lì, non è che la persona che c'era mi dava fastidio, era solo il modo in cui ci stava facendo ruota, non le persone, cosa me ne ha fatto? Io parlo con tutti, capito? Era solo quel cazzo di tu, in ogni non si vieni più, ogni discorso 5 minuti, 10 minuti di goso, che poi ti rilanciano, magari ti sei alzato a bere, mi si è sentato, boh, entra, poi non rientra più. Fai di rodare di un'ora e mezzo. Uno anda, si va giù una passeggiata di Piazza Italia, da Bedorre intanto. Ho capito, ma io te l'ho spiegato, sono solidale con te, sono d'accordissimo con te. Però nessuno ti dà il diritto di, capito, togliere quello che hai tolto. Quindi rimettila davvero, fammelo biasere. Poi ti ripeto, quando voi non ce n'è problema, anche se io sono al 10, io saluto e mi sposto. Io mi sto spostando, buon proseguimento a tutti, continuate. Qual è il problema? Ognuno è libero di spostarsi dove vuole lui. Tanto ci abbiamo sempre questa in monitor, già da tanti anni. Quindi, già prima di assegnarcela, no? Il canale 7 oramai lo sappiamo, ci siamo noi di Sassari, CB di Sassari. Quindi, ci abbiamo questa in monitor, basta, non lo dice qua, io saluto e mi sposto. Ma non è che tu usci di punto in bianco e ne vuoi l'antenna, no? Che cazzo di discorsi sono? Frettoloso, cazzo, le cose giravano, cazzo a mille, ma va, fai quello che sai, no, che ho pulsato, cazzo, che forse mi rilanciano, ma un attimo, ti guardo sempre. Guarda, anche te. Guarda, c'è entrato Giulio. Ho risposto io ieri, con Tavizza Desi, cazzo, invece di fare cose in pressa. Capito, tutto qua. Sì, Giulio, che ti sento, vieni avanti. No, adesso mi sei sparito, Giulio. Provando, un altro portatellino. No, secondo nella posizione in cui ti metti ti ascolto benissimo, non ce n'è problema. Ok. Volevo fare un esperimento, perché mi sta... vabbè, comunque. Non so se mi stai sentendo ancora, dimmi se stai sentendo. tutto il passaggio? Sì, perfettamente. Ah, ok. Perché ho scoperto con quest'altro come posso fare, dai. Va bene, dai. Già fatto l'esperimento, d'accordo, dai. Rientro subito, dai. KK, siamo qua. Non ci sono problemi. Attento, platinette. Che ce l'ha finito? Boh. Oh, cla. Boia. Se te l'ho detto che... Me, Luca, gli ho messo quel chip in ascensore. Va bene, dai, allora entro a lavarmi. Intanto ti ho sentito dall'andito, ti ho sentito con Giulio che stavi riprendendo. Allora entro a lavarmi, dai. Ok, va bene, ci sentiamo dopo nel caso. Via, sono qua in quel Rix, non c'è problema, capito? Fai chi si ti ha giudito, Se no, già lui sai che mi la dirò forte, dai. Vai a lavarti, ci sentiamo dopo, sono qua. Vabbè, sono rientrato, dai. Raul non ti sente. Non mi sente? Già, mi sente. No, Giulio, un salutino, sono andato solo a salutarvi. Ciao Giulio, buona serata, buon proseguimento. Ciao Claudio, buona serata anche per te. Guarda che Giulio ti sta chiamando, ciao. Ciao Bacchi, sì, scusa che mi sono alzato un secondo, dimmi giù. Oh, ho detto che sono rientrato, ciao Bacchisio. Ben ascoltato. Rimani qua, Bacchi, un po'. Pasticciando, giù. Sto pasticciando, sono azzuffandomi con un microfono. Sempre in lotta, sì, Sempre in lotta col saldatore, sì, tu. E va bene. Sempre fumante ce l'hai col saldatore. E va bene così. D'accordo, comunque se credi siamo qua. Avanti, qua. Eia. Va bene, Bacchi. Ottimo segnale, arrivi benissimo. Anche tu, non ci stanno problemi. Buona saldatura, allora, dai. Io sono qua, con RX, tanto. 27 non venisci uno, come al solito. Non lo sai che è così. Ma poi la giornata oggi già è discreta anche, dunque la gente se ne va in giro, se ne va, sarà anche per quello, che ne so. Comunque, ormai da un po' di tempo a questa parte, sempre di meno, sempre meno persone in frequenza. Vale, pazienza. Vabbè, sono scelte loro, ma lo sai, ne abbiamo già parlato. Io parlo se c'è gente, se non c'è gente già c'ho altro da parlare, sto qua, qual è il problema? Claudio, c'è il virus e dunque sono tutti caduti. Il virus, il virus è bello, però è un virus, Tutti caduti, andrà bene, dai, continuo a farmi queste piccole salvature e poi già rientro. Claudio, sto andando con una mini Grand Prix, una piccolissima antenna. Va bene, 659 qua, Bacchi, non ci sono problemi. Su questo portatile 659 si accende praticamente a metà. Bene, allora funziona tutto bene. Avanti, riprende Giulio, con Rick ci permia, riprendo dopo, dai. Giulio? Mi ero spostato, stavo facendo prove da altri posti della casa, ma non c'è niente da fare. Il punto migliore è proprio qua, dove sono adesso. Niente da fare, purtroppo è così questa frequenza. No, perché stavo pensando, ma gira, lo posso utilizzare anche giù, ma niente da fare, no. Non c'è niente da fare qua. No, giù è un po' tosta la situazione. Io ti sento lo stesso, ma devo stare molto vicino alla finestra per sentirti. No, così non va bene, assolutamente. Non va bene nella maniera più assoluta. Vabbè, pazienza, dai. Pazienza, va bene lo stesso. Vuol dire lo utilizzerò qua, in questo punto dove sono adesso, e cioè nella camera da letto, praticamente. Perché se scendo giù, o se mi sposto da un'altra parte, niente da fare. Niente da fare. Vabbè, a te ti sento lo stesso, però lo senti tu a me, il problema è quello. È lì, tu mi senti a me perché io sono in alto e quindi mi senti, ma io non sento a te se ti sposti. È lì il problema, capito? Vabbè, pazienza, vuol dire io mi svango qua e così ci sentiamo. Per cui, no, stavo pensando, ma potrei anche spostarmi, magari che so io, mettermi davanti al computer giù, così potevo parlare e allo stesso tempo guardare il computer. Niente da fare, no, non va bene, non va bene, cioè mi dovrei piazzare allora in quel caso lì un'antenna per poterla utilizzare giù, ma no, non ci penso proprio, L'antenna la lasci dov'è? E praticamente allunghi un cavo, un RG58, e te lo agganci quando vuoi stare comodo. Io me l'ho organizzato così, capito? Fino a quando poi, vabbè, ho fatto quello che ho fatto, ma se no, se ti sposti così, anch'io ho grandi difficoltà col portatile. Se rimango qui dove sono va bene, ma se vado per dire nel salone non mi sente nessuno. Ok, appunto. Purtroppo il gommino è gommino, non c'è niente da fare. Magari con l'antenna chiaramente posso anche scendere giù, ma mi dovrei fare tutto un sistema di allungo cavo eccetera, perché se no non va bene. Mentre qua va bene col gommino, tranquillamente parlo e ascolto anche tutti, e mi ascoltano allo stesso tempo quasi tutti, o perlomeno tutti addirittura. Per cui, ma io volevo anche spostarmi per non stare sempre seduto qua, e volevo anche spostare nella parte più bassa della casa, ma in quel caso lì niente da fare, in quel caso lì ci vuole l'antenna. Eh sì, io sono una base magnetica di macchina, e praticamente sulla finestra è agganciata così. Altrimenti non fa se ti sposti dentro casa, capito? Assolutamente. E infatti non fa proprio. Però strano, perché se vado in strada mi senti. Ma in strada però. Ma non è che posso stare in strada, no? Sembra strano, no? Eppure in strada sono molto più in basso. Ma è così. Qui c'è tutta la schermatura dei muri della casa, per cui è quello il problema. Sono in questa posizione dove mi trovo adesso, posso utilizzarlo. Diversamente in altri punti niente da fare. Te ne immagini, se poi vado per strada sono sicuro che tu mi senti, perché mi hanno sentito altre volte altre persone. Beh, certo che ti sento se vai in strada. Io ho tolto l'antenna sua del portatilino e l'ho messa sulla base magnetica nella finestra, e non è che abbia grandi cose, capito? La sua stessa antenna, ne ho preso due di connettori e uno l'ho agganciato fuori nella finestra, perché altrimenti non va bene dentro casa, capito? Non ce la fa a uscire. Infatti dentro casa non ce la fa. Non ce la fa, no. Deve trovare solamente il varco giusto, deve trovare, ma dopo tante prove che avevo fatto, ma non da adesso, già tanto tempo fa, avevo capito che la posizione per poter modulare in PMR da casa era questo dove sono adesso. Diversamente niente da fare in tutte le altre posizioni. E lo stesso discorso vale anche quando salgo in massata, anche quando salgo in massata, se vado fuori in terrazzo arrivo bene, non c'è problema. Se invece rimango all'interno, anche lì non lo so, evidentemente sarà la schermatura della casa, non lo so, è così qua. Dove c'è cemento armato, queste frequenze sono un po' le UHF, sono un po' balorde in sé, già quelle amatoriali, figurati questa che è una frequenza un po' più alta. E vabbè, a me mi salva l'altezza, lo sai, con l'antennino così arrivo, mi sentite tutti, quindi non c'è problema. Va bene. Luca sta facendo la doccia, Bacchisio sta saldando, l'altro Luca è uscito, non c'è altro nessuno. E noi ce ne rimaniamo a casa. E vabbè. Aio Luca, togli fuori l'antenna della 27 e rimettila su, dai. Che pittina. Utilizzano questo palo ascensore, falla alzare e farà lo manco. Quando non ti serve la base e quando ti serve la tiri su. Luca Flipper. No, già non le fa stronzate. Già gliel'ho già detto poco fa io. Adesso se ce la fa domani, se non piove la rimette dov'era, se no lunedì. Capito? La rimette dov'era ed è libero di fare quello che le pare e piace. Se vuole parlare parla, se non vuole parlare sta in silenzio. Se ci vogliamo spostare ci spostiamo, ognuno, ripeto, è libero di parlare dove vuole e con chi vuole, senza nessun malumore. Quindi se dobbiamo parlare il 10 parliamo il 10, se dobbiamo parlare il 20 parliamo il 20, Se dobbiamo entrare a salutare nel 23, entriamo a salutare nel 23, qual è il problema? Ma non è che nessuno ti dà il diritto di toglierne tutto a chi non ti biasi va vedà perché fanno ping pong. Ma cosa me ne frega a me, il ping pong? Non so cui giocare a tennis io, no? No, ma anche io mi so cui giocare a tennis. E vabbè, comunque, cosa vuoi che ti dica? Io problemi non ne ho, io posso restare e accettare tutti i canali e tutti gli spostamenti che vogliamo, no? Problemi, però non siamo tutti uguali nella vita, per cui ognuno ha le sue idee e le sue idee bisogna, le idee delle persone bisogna anche rispettarle, per cui ognuno fa come crede, senza nessun problema. E la vita è così, è bella perché varia, gli umori sono vari, per cui se no sarebbe una noia completa, guarda. Sì, si conferma. Aspetta che sposto sto cacchio di frequenza perché... Ok. Sì, ma infatti, ma io cosa sto dicendo? Non ci sono malumori, non c'è nessun... Siamo tutti tranquilli e sereni, però dico, ognuno è libero di spostarsi dove vuole, chi vuole parlare nel 45, chi vuole parlare nel 10, chi vuole parlare nel 20, non ci deve essere problema. Vogliamo parlare tutti assieme, si parla tutti assieme, però se io mi voglio fare due chiacchiere con te per non fare ping pong, è chiaro che mi devo spostare, non posso vabbè con te quando mi sono altri 5 bazzoni, è quello che diceva Luca. Capite? Quindi quando dobbiamo parlare di altre cose, di prove, eccetera, eccetera, o informazioni tecniche di antenne, di quello, di quell'altro, basta spostarsi e non disturbare il QSO. Questo è molto importante, te l'ho già detto. Ecco, questo si può fare. Non è che parò a chi è, capito? Beh, certo, quello sì, indubbiamente. In effetti è quello che lui intende. Uno se deve fare monologo con un'altra persona si sposta e basta e non rompe le scatole agli altri, tra virgolette, così, no? Detto chiaro chiaro, così un po' grossolanamente. Però è così, quando c'è la ruota bisogna farla girare, non si può pensare che tu parli per tre quarti d'ora dimenticandoti che ci sono anche gli altri, no? Quella è anche una mancanza di rispetto, tutto sommato. Per cui è giusto che se hai qualcosa da dirti con l'individuo, vi spostate e ciccia. E lasci libero chi deve parlare nel canale, tutto lì. Va bene, dai, riprendi. Quello che dico io. Beh, grazie. Buonasera, salutatori circolari. Cosa siete, soli? Allora, meglio giuri che mi hai accompagnato, Zighito. Ah, quello è vero, Ciao Giulio, anche a te, riprendi. Giulio, non lo senti Graziano? Sì che lo sento. Ciao Graziano, no, che stavo ascoltando un attimo sul 23, stavo ascoltando. No, forse si stanno spostando. Hanno, forse devono fare qualche prova. Tore ha detto che dava la frequenza a Bacchisio per spostarsi, magari per fare... Ecco, così si fa. Ti do una frequenza. Andiamo lì e facciamo tutto quello che ci pare e ci piace, ecco, così è un modo corretto, correttissimo, anche di radio, tutto lì, ciao, grazie, avanti. Eia, oggi ha giocato una murena, 1,15 metri era, lunga, bella grossa. Ciao Graziano. Mureni, ha 1 metro di bicchiere. E l'anghita, Borghi spura l'anghita a metro. Aspetta che stiamo castigando a Giulio. Ah, mi c'è Bacchisio anche, non lo senti a Giulio, Bacchisio. Chi è che lo sente, lo stavi castigando? Minimo era 10 centimetri grossa. Capita, babbo, a poi Giuseppe. Che ti sono mangiato un anedo qualche giorno fa? Tu ti hai mangiato un pesce lungo, 1,10 metri, boh, non è possibile, grazie. Caspita quanto siete a mangiunio. Un boa era, Claudio. Datemi un secondo, giù. Devo dire una cosa a mia figlia prima che esca. Riprendi, grazie. Ehi, Giulio era un boa, non lo senti Marchisio, Giulio? Sì che lo sento, se stavamo parlando poco fa con Marchisio, Marchisio, vieni avanti. Marchisio! Marchisio, non ci sei, caduto sì, allora me. Sta aggiustando il microfono, mi ha detto che sta aggiustando il microfono, ma è poco fa era qua, su questa frequenza. Ma mi ha detto che stava aggiustando un microfono. E io gli ho detto che aveva il saldatore fumante. Sono qua, arrivito. No, non sa cos'è Giulio. Mi ha saltato la frequenza. Ah, ti è saltata la frequenza. Capita. Grazie a Paolo da Piombo, perché Marchisio ti ha sorpassato. Ti sei passato un altro gabbo. Io. Avanti, Graziano, buonasera, ben ascoltato. Ciao Bacchi, ma mi senti? Come non ti sento? Se sto rispondendo ti sento, se non ti ho inteso. Di lusso vai. Eia, là, stamattina ero vicino a casa tua con la motoretta. Oh, io ero in campagna, Graziano. In motoretta in zona sei venuto. Ehi, lì al latte dolce, sopra dove abita Gio Maria, nella pista ciclabile, insomma un po' in giro, là. Sì, adesso andando a passeggiare, fai bene. Fa così, almeno puoi fare la spesa, tranquillo e beato. Vediamo se Tole è entrato qua, Tole. Ehi, sono qua, sono arrivato a mettere giusto. Anda, beh, adesso posso entrare. Si può, sì. Buonasera a tutti. Anche a tutti quanti. Certo che si può, perché no? Ci mancherebbe altro. Ma puoi scherzare tu, capita. Non c'è bisogno di chiedere se si può, perché noi accettiamo tutti, la porta è aperta, anzi è spalancata per tutti gli amici della CB e di Sassari e dintorni, per cui non c'è problema, Tore. Ciao, buonasera Tore, riprendi. No, perché stavo cercando la frequenza qua. Mi sei pulsato il coso, ho toccato e non riuscì a ciapparla. Poi ho sentito a voi e sono riuscito a sintonizzarmi. Anda beh. Graziano, anche da buona era. Ciao Tore, no, Murena era. Era lunga 1,15 m, grossa 10 centimetri. Buona redda e la frissa. Oh yeah. Andiamo. Ah, signor Bacchi, hai visto uno che si mangiava Murena? Graziano, dice Graziano che anda a piccare Mureni. Però anda a piccare la Logonal. Poi ti mando, Bacchi, ti mando la foto, ti mando su WhatsApp. Vedi che è manna. Sì, ce l'ho giù il telefono, poi quando scendo ce la guardo. La foto giù mi manda, lei mi manda un pezzo di coso, no? Di Murena, una foto, e mi mangio la foto, mi mangio. Ma lo sai quanto è grande? Dica, tu la vedi in fotografia, ingrandisci il quadro, vedi quanto è bella, distesa. Ehi, a brodo, come te l'hai fatta? A trance e fritta. A trance e fritta, ma non tutta, no. Un quarto, là. E lui e mia moglie di giù. L'altro l'ho messo nel pozzetto. L'ho fatta a trance, no? E l'ho messo nei sacchetti e nel pozzetto. Andavè, Tore, senti tu, è 1,15 m, che è la lunga quella Murena. A te lo immaginesi, eh? Già si tratta vero il giovane, ya. Ah, Tore. Giulia, adesso ti mando la foto, aspetta. Mandami la foto, così mi mangio il telefono, mi mangio. E io, poverino, oggi sono fettine impanate, a te lo immaginesi. E zucchine fritte, buone, molto buone. E beh, io sono povero, questo è Graziano, mangia Murena, Tore. Vissurai. Ma non lo so, così si sta a fare tutta la pinara a goda. Non lo so, guè, sai mangiare dubbini e pina burro. Salmone, code di salmone, non le tranci, no, le code che sono già spinate e tutto l'altro. A me piace moltissimo. Pure che si è pigliato un brigio, 17 kg, grazie.